questo più che altro. Sto facendo una cosa qua dentro, capito? Bene, mi ascolti a me, sì. Abbastanza, Rulo, abbastanza. Andà bene, dai, che giornata di merda oggi. Oggi la dedichiamo qua a fare una cosa qua. Vabbè, visto gli ultimi lavori, ti conviene. Va bene, dai, nel caso sentiamo dopo a casa. Chiama positivo, frate, non ci stanno problemi, chiama. Ciao Luganini. Ciao Tino, ciao. A più tardi, ciao. Oh, yeah. Attento Lucariello. CQ canale 10. Per fischiare potevi fischiare con un fischietto. Non va. Che cosa, Natale? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Stavo provando un baracchino, no? Vuole preso e buttato all'ecocentro. Giornata balorda oggi. Tutti muti oggi. Buongiorno. Attenzione, 10, cazzo. Franco, mi sei? Prova Gianni. Guarda bene se esco, Franco. Ho capito, no? Guarda bene se esco. Stai uscendo, 9:20, c'è Radio 5. Bene, mi ascolti? Di solito arrivo con 9:30, così. Non ha variato. Vabbè, sto usando una radio omologata io, quindi no. Ma non so se il segnale ha aumentato, cioè diminuito. Comunque, aspetti, do un passaggio, un controllo con un'altra radio. Forse è meglio, perché qua c'è anche lo 7. Ciao Claudio, buongiorno. E qua mi arriva perché è vicino, mi sta arrivando a 9 a Pechino 9:05, dai. Ma sicuramente c'ha problemi in antenna, capito? Io lo 7 qua Gianni, lui già sta arrivando. Vicino a te, ma qua che non sappiamo se il segnale di Gianni è 9:20 e 9:30 quando attacca. Ah, quindi è giusto il segnale suo. No, Santiago 7, c'è qualcosa che non va. Gianni, vedi? Perché ce l'hai spezzata l'antenna? Se si è spezzata l'antenna è... Questa è la grande Game Master, cazzo. Non lo cerco per dire. Già due voci, si è spezzata. Non c'ha problemi. Santiago 7, è radio, è anche brutta, satura. Antenna già, hai comprato quella che ho io, non serve una nota di Sant'Enna, ma lascia perdere. Comunque non modulare perché sta arrivando molto molto basso, Santiago 5 si è calato adesso, stai attento che puoi fare danno. No, qua sei un po' di no, sei Santiago 5. Ma sei anche agganciato? Sembra che sia agganciato, modulazione compressa, capito? Modulare già, butta la terra con l'antenna e metti la nuova, ma metti un'antenna però, non un'antenna va, se metti questa, se toccavi che c'è io, te ne lecchi le dita da lì, le dita te ne lecchi, non ha radiare, non ha niente, ma te ne lecchi le dita veramente, io sono soddisfattissimo, non soddisfatto, mi stavo accompagnando a Carlo, 9:50, nella strada dei due mari, 9:50. Vettiero in più della Game Master, 180 euro. chiamare la Smart Tech se ce n'è, perché non ce n'erano, le ha vendute tutte, erano in arrivo. Comunque, ti farò sapere se vuoi quella, problemi non ce n'è. Bogazzia già, c'avevo un consiglio, Bogazzia intanto, è già due volte che ti si è rotta, lascia per, questa è una bellissima antenna, c'è una ricezione da favola, va bene, dai, quanto sta arrivando frate? A me mi stai arrivando 9:20 qua, radio 5 è perfetta. Ma non sei col K dovrebbe essere più alto, perché tu sei Santiago 9. Il segnale 9:10, cosa sei con l'omologato? Sto utilizzando, non so se lo conosci, un vecchio Midland, però c'ha solo la M, di quelli piccoli, capito? Quelli vecchi. Sì, ora 3 watt, quanti watt e denti? 5 watt, guarda, 5 watt modulati, 4,5, 5. No, ma è di quelli antichi, capiti, quarzati. Ah, ehi, vabbè, allora, il segnale è quello che era. Vado a mangiare, ciao ragazzi, statemi bene, buona immacolata a tutti, a frappè, ciao. Ciao, buona domenica, saluta in casa anche da parte mia. C'è da riascoltare Bruscimine, gappa, che dopo mi do un'altra ripassata. E sto studiando, capito, quindi no, e c'è molto tempo di stare in radio, entro ogni tanto così. Anch'io sentavo un po' più 27, sto facendo un po' più di attività amatoriale, visto che abbiamo ripreso. VHF, non HF, capito, un po' in 10 metri, però quando capita passo anche qua, insomma, non c'è problema. Va bene, ciao, fra, saluti a casa anche a te, ci sentiamo, ciao, vedi un po' se riesci a riparare la 40, ma se non ti senti dire il gomolo. Ciao Claudio, ciao. Buon pranzo a tutti e salutoni. Dove è Gradio, com'è a Porto Torres? Umido. E il mio segnale non te la asciuga l'antenna, no? Niente? 9:05, sì. Ciao Carlo, e anche tu sei una bomba, ti ascolto, molto bene. Molto bene. Ok, 9:05, va bene allora, va bene. Purtroppo la truppa. Ok, scappo, ciao a tutti. E buona giornata festiva. Ciao Claudia, ciao, ci sentiamo le prossime, anch'io vado a papà, vado ancora a preparare il mangiare al cane, vai. Ciao Carlo, buon lavoro, buon tutto, ci sentiamo stasera se coincide, altrimenti alle prossime, grazie del controllo, ciao.